Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Due giorni dopo, Denver, mentre era sulla veranda, notò qualcosa sul ceppo in fondo al cortile. Andò a vedere e trovò un sacchetto con dei fagioli bianchi. Un'altra volta un piatto di carne di coniglio fredda. Una mattina c'era un cesto di uova. Nel sollevarlo, vide scivolare a terra svolazzando un pezzo di carta. Lo raccolse e lo guardò. Lucille Williams, c'era scritto a grosse lettere, tutte sghembe. Sul retro del foglio c'era una goccia d'impasto d'acqua e farina. Così Denver fece visita per la seconda volta al mondo oltre la veranda, anche se tutto quello che disse nel restituire il cesto fu «Grazie». «Prego», rispose Lucille Williams. Per tutto il corso della primavera apparvero dei nomi nei cibi donati o nei pressi. Ovviamente era per permettere di restituire l'eventuale padella, cesto o piatto, ma anche per far sapere alla ragazza, se le importava, chi era il donatore, poiché quel fagottino era avvolto solo nella carta e anche se non c'era niente da restituire, non di meno il nome c'era sempre. Molti foglietti recavano delle X con dei disegnini attorno e Lady Jones cercava di identificare chi appartenesse il piatto, la padella o il panno che era servito a ricoprire il cibo. Ogni tanto Denver non poteva fare altro che tirare a indovinare e seguiva comunque le sue indicazioni e andava a ringraziare, che fosse il benefattore giusto o meno. Quando sbagliava, quando la persona diceva «No, cara, quella scodella non è mia, la mia ha una striscia blu tutto attorno», nasceva una breve conversazione. Avevano conosciuto tutti sua nonna e qualcuno aveva perfino preso parte alle danze nella radura. Altri si ricordavano dei tempi in cui il 124 era una stazione clandestina, il posto dove si riunivano per raccogliere le novità, assaggiare la minestra con il brodo di codino, lasciare i bambini, tagliare una gonna. Una si ricordava del tonico fatto lì che aveva guarito un congiunto. Una le mostrava l'orlo di una federa, gli stami dei fiori d'un azzurro pallido, ricamati appunto francese nella cucina di Baby Sachs alla luce di una lampada a olio mentre discutevano della tassa sulla vendita. Si ricordavano della festa con 12 tacchini e le tinozze piene di succo di fragola. Una diceva di avere avvolto in fasce Denver quando aveva solo un giorno ed aver tagliato delle scarpe che andassero bene per i piedi martoriati di sua madre. Forse erano dispiaciuti per lei o per Seth. Forse erano dispiaciuti per tutti quegli anni di disprezzo. Forse era solo della brava gente che non riusciva a serbare rancore per troppo tempo e che quando per qualcuno arrivavano i guai a sprombattuto, subito, senza pensarci su, faceva quel che poteva per farli inciampare. A ogni modo, l'orgoglio personale, le affermazioni arroganti del 124, tutto questo sembrava essersi esaurito. Bisbigliavano tra loro, naturalmente, domandavano, scuotevano la testa. Qualcuno rideva perfino apertamente per quei vestiti che facevano sembrare Denver una puttanella. Però questo non impediva che continuassero a preoccuparsi se aveva mangiato e non impediva la gioia che gli dava sentire quel suo dolce «grazie». Almeno una volta alla settimana Denver andava a far visita a Lady Jones, la quale ritrovava quel tanto di vigore che le consentiva di fare una pagnotta con le uvette, appositamente per lei, poiché a Denver piacevano i dolci. Le diede un libro contenente i versetti della Bibbia e la stava ad ascoltare mentre biascicava le parole o a volte quasi le declamava. A giugno, Denver aveva letto e imparato a memoria tutte le 52 pagine, una per ogni settimana dell'anno. Mentre la vita sociale di Denver migliorava, la vita familiare peggiorava. Rinvigorite dalle regalie di cibo, la cui provenienza non interessò mai né Beloved né Seth, le donne erano giunte a una tregua da giorno del giudizio, architettata dal diavolo. Beloved sedeva di qua e di là, mangiava, passava da un letto all'altro, a volte urlava «Pioggia! Pioggia!» e si serrava la gola finché non le si aprivano dei rubini di sangue resi ancor più luminosi dalla pelle nerissima. Allora Seth gridava «No!» e rovesciando le sedie per raggiungerla, asciugava quei gioielli. Altre volte Beloved si rannicchiava sul pavimento, i polsi stretti tra le ginocchia, e restava così per delle ore. Oppure andava al fiume, se ne stava coi piedi nell'acqua e se la spruzzava sulle gambe. Dopodiché andava da Seth, passava le dita sui denti della donna, mentre dai grandi occhi neri scivolavano le lacrime. A quel punto, a Denver, sembrò che fosse fatta. Beloved, ricurva sopra Seth, sembrava la madre. Seth, la bambina che metteva i denti. Poiché al di fuori dei momenti in cui Beloved aveva bisogno di lei, Seth restava relegata su una sedia, in un canto. Più Beloved diventava grande e più Seth diventava piccola. Più gli occhi di Beloved diventavano luminosi e più quegli occhi che non si abbassavano mai diventavano due fessure assonnate. Seth non si pettinava più, né si rinfrescava la faccia con l'acqua. Stava seduta sulla sedia, leccandosi le labbra, come una bambina in castigo, mentre Beloved le divorava la vita, la afferrava e se ne gonfiava, la usava per diventare più alta, e la donna più anziana se ne privava senza fiatare. Denver le serviva entrambe, lavando, cucinando, convincendo sua madre con le buone e con le cattive a mangiare qualcosa ogni tanto, procurando dolci a Beloved tutte le volte che poteva per cercare di placarla. Era difficile prevedere quel che avrebbe fatto da un minuto all'altro. Quando il caldo divenne più forte, Beloved prese a fare il giro attorno alla casa nuda o avvolta in un lenzuolo, la pancia che sporgeva come un seducente cocomero. Denver pensava di aver capito la relazione tra sua madre e Beloved. Seth cercava di rimediare in qualche modo alla sega. Beloved gliela faceva pagare. Però non ci sarebbe mai stata fine. E vedere sua madre degradarsi così la faceva vergognare e infuriare allo stesso tempo. Eppure sapeva che la paura più grande di Seth era la stessa che Denver aveva avuto all'inizio, che Beloved potesse andarsene. Il timore, prima che Seth riuscisse a farle capire quanto voleva dire, che cosa c'era voluto per muovere i denti di quella sega sotto il suo piccolo mento, sentire il sangue della bambina nella sua mano sgorgare fuori come il petrolio, tenerle la faccia, così la testa sarebbe rimasta su, stringerla a sé, così avrebbe potuto assorbire, immobile, gli spasmi mortali che percorrevano veloci quel dolce, adorato corpicino pieno di vita. Il timore che Beloved potesse andarsene. Andarsene. Prima che Seth riuscisse a farle capire che peggio ancora di quello, molto peggio, era quello di cui era morta Baby Sags, quello che ella conosceva, quello che Stampede aveva visto e quello che aveva fatto tremare Paul D. Che un bianco qualunque potesse prendere l'io di una persona per il primo motivo che gli saltava in mente. Non solo poteva sfruttare, uccidere o mutilare una persona, ma anche sporcarla. Sporcarla al punto che lei non riusciva più a piacere a se stessa. Sporcarla al punto da dimenticare chi si è e non poterci più pensare. E anche se lei e altri erano sopravvissuti e si erano ripresi, non avrebbe mai potuto permettere che accadesse ai suoi figli. Loro erano la sua parte migliore. D'accordo, i bianchi potevano sporcare lei, ma non la sua parte magica, meravigliosa, la parte pulita. Niente sogni inimmaginabili, col dubbio se il torso senza testa, senza piedi, appeso all'albero con un marchio sopra fosse quello del marito o di Paul A., se tra le ragazze che ribollivano nell'incendio appiccato dai patrioti alla scuola ci fosse anche sua figlia, se una banda criminale di bianchi avesse violato le parti personali di sua figlia, se le avesse insozzato le cosce o l'avesse buttata giù dal carro, lei sì, poteva anche farsi il cortile del mattatoio, ma non sua figlia. E nessuno, nessuno a questo mondo avrebbe elencato le caratteristiche animali di sua figlia da una parte su un foglio. No, oh no, Forse Baby Sachs poteva tormentarsi, vivere con una cosa simile. Seth si era rifiutata e si rifiutava ancora. Denver le aveva sentito dire questo e altro ancora mentre, seduta in un canto, sua madre cercava di convincere Beloved, l'unica persona che sentiva di dover convincere, che quanto aveva fatto era giusto, perché dettato da vero amore. Beloved, coi piedi intatti e grossi, appoggiati su una sedia di fronte a quella su cui sedeva Seth, le mani senza linee adagiate sulla pancia, la osservava. Non voleva capire nulla, se non che Seth era la donna che le aveva portato via la faccia, lasciandola rannicchiarsi in un posto buio, buio, dimenticandosi di sorriderle. Degna figlia di suo padre, dopo tutto, Denver decise di fare ciò che si imponeva. Decise di smetterla di contare sulla bontà di chi lasciava qualcosa sul ceppo. Sarebbe andata a lavorare da qualche parte e, pur avendo paura di lasciare Beloved e Seth sole tutto il giorno, non sapendo che disastri avrebbero potuto combinare, alla fine si rese conto che la sua presenza in quella casa non influiva minimamente sul comportamento delle due donne. Le aveva tenute in vita e loro la ignoravano. Ringhiavano quando dovevano scegliere, si risentivano, si spiegavano, esigevano, camminavano impettite, si facevano piccole piccole, urlavano e si provocavano a vicenda fino al limite della violenza, poi finivano e ricominciavano tutto da capo. Da un po' di tempo Denver aveva notato che anche quando Beloved se ne stava tranquilla, sognante, e si faceva i fatti suoi, Seth la izzava di nuovo, sussurrando, biascicando qualche giustificazione, qualche informazione chiarificatrice per meglio spiegare a Beloved che cosa era stato e come mai e perché. Era come se Seth non volesse il perdono. Voleva che le fosse rifiutato e Beloved la accontentava. Bisognava salvare qualcuno. Ma a meno che Denver non trovasse un lavoro, non ci sarebbe stato nessuno da salvare, nessuno da cui tornare a casa la sera e tanto più nessuna Denver. Era un pensiero del tutto nuovo per lei, avere un io di cui prendersi cura e da preservare. E forse non le sarebbe venuto in mente se non avesse incontrato Nelson Lord che usciva dalla casa della nonna, mentre Denver vi entrava per ringraziarla di una mezza torta. Le aveva solo detto sorridendo «Stammi bene, Denver!» Ma lei l'aveva presa come se quella fosse l'essenza stessa del linguaggio. L'ultima volta che le aveva parlato, le sue parole le avevano chiuso le orecchie. Questa volta le avevano aperto la mente. Strappando le erbacce dal giardino, raccogliendo la verdura, cucinando, lavando, pensava a che cosa fare e come. I Bodwin erano quelli che con maggiori probabilità l'avrebbero aiutata, poiché l'avevano fatto già due volte. Una volta per Baby Sachs e una volta per sua madre. Perché non anche per la terza generazione? Si perse tante di quelle volte per le vie di Cincinnati che, quando arrivò, era passato mezzogiorno, pur essendo partita al levar del sole. La casa, un po' discosta dal marciapiede, aveva delle larghe finestre che davano su una strada affollata e rumorosa. La nera che venne ad aprire la porta principale disse «Sì? Posso entrare? Che cosa vuoi? Voglio vedere Mr. e Mrs. Bodwin. Miss Bodwin. Sono fratello e sorella. Ah, per che cosa li vuoi? Cerco lavoro. Pensavo che potevano aiutarmi». «Tu sei una parente di Baby Sachs, non è vero?» «Sì, signora». «Avanti, entra, così passano le mosche». Condusse Denver in cucina, dicendo «Tanto per cominciare, devi sapere a che porta si bussa». Ma Denver la sentì appena, perché stava camminando su qualcosa di morbido e di blu. Attorno a lei era tutto folto, morbido e blu. Stipetti di vetro pieni di cose scintillanti, libri sui tavoli e sugli scaffali, lampade d'un bianco latteo dalla base di metallo lucente e un profumo. come la colonia che Denver versava nella casa di Smeraldo. Più buono, però. Siediti, disse la donna. Sai come mi chiamo? No, signora. Jenny. Jenny Wagon. Come sta? Non c'è male. Ho sentito dire che tua madre si è ammalata. È così? Sì, signora. Chi la cura? Io. Però ho bisogno di trovare un lavoro. Jenny si mise a ridere. Vuoi sapere una cosa? Sto qui da quando avevo 14 anni e mi ricordo come fosse ieri quando Baby Sax, la santa, è venuta qui e si è seduta proprio dove stai tu. L'aveva portata un bianco. È così che ha avuto quella casa dove abitate tutti e anche altre cose. Sì, signora. Che cos'ha, Seth? Jenny si appoggiò al lavandino e incrociò le braccia. Era un piccolo sforzo, ma a Denver sembrò grande. Nessuno l'avrebbe aiutata, a meno che non avesse raccontato tutto. Era chiaro che altrimenti Jenny non l'avrebbe aiutata e non le avrebbe consentito di vedere i Baldwin. Così Denver raccontò a quella sconosciuta ciò che non aveva raccontato a Lady Jones. In cambio di questo, Jenny ammise che i Baldwin avevano bisogno di qualcuno, anche se loro non lo sapevano. Lei era lì da sola, e ora che i suoi padroni stavano invecchiando non poteva aver cura di loro come una volta. Le veniva richiesto sempre più spesso di passare lì la notte. Forse poteva convincerli a far fare a Denver il turno di notte, diciamo, a farla venire subito dopo cena. Farla restare magari fino all'ora in cui bisognava preparare la colazione. In quel modo Denver poteva prendersi cura di Seth di giorno e guadagnare qualcosina la notte. Come le sembrava? Denver aveva spiegato la presenza a casa sua della ragazza facendo passare Beloved per una cugina che era venuta a trovarle, che si era ammalata anche lei e che le seccava entrambe. Jenny pareva più interessata alle condizioni di salute di Seth e, a giudicare da quanto raccontava Denver, pareva che la donna avesse perso la testa. Quella non era la Seth che lei ricordava. Questa Seth alla fine era uscita di senno, così come Jenny aveva previsto, cercando di fare tutto da sola con la sua aria sostenuta. Denver ebbe un moto di disagio a sentir criticare la madre. Si agitò sulla sedia, tenendo lo sguardo fisso sul lavandino. Jenny Wagon continuò il suo discorso sull'orgoglio finché non arrivò a Baby Sax, per la quale ebbe solo care parole. Non sono mai andata a quelle sue cerimonie nel bosco, però è sempre stata gentile con me, sempre. Non ce ne sarà un'altra come lei. Anche a me manca, disse Denver. Lo credo, manca a tutti. Era una brava donna. Denver non disse nient'altro e Jenny la guardò in faccia per un po'. Nessuno dei tuoi fratelli è mai tornato per vedere come ve la passavate? No, signora. Mai avuto loro notizie? No, signora. Niente. Scommetto che se la vedevano brutta in quella casa. Dimmi un po', questa donna che sta a casa tua, la cugina, ha delle linee sulla mano? No, rispose Denver. Bene, disse Jenny. Dopotutto, Dio esiste. Il colloquio finì con Jenny che le diceva di ritornare di lì a pochi giorni. Aveva bisogno di tempo per convincere i padroni di ciò di cui avevano bisogno. Una persona per la notte, poiché la famiglia di Jenny aveva bisogno di lei. Non voglio lasciare questa gente, però non possono avermi tutti i giorni e anche tutte le notti. Che cosa avrebbe dovuto fare Denver la notte? Stare qui, casomai. Casomai che cosa? Jenny alzò le spalle. Casomai la casa bruciasse, sorrise. Oppure, casomai le strade fossero così infangate da farmi arrivare tardi. Casomai ci fosse da servire degli ospiti a tarda sera e poi ripulire. Qualsiasi cosa. Non chiedere a me di che cosa hanno bisogno i bianchi la notte. Una volta erano dei bravi bianchi. Oh, sì, sì, sono bravi. Non posso dire che non siano bravi. Non li scambierei con altri due, te lo dico io. Con quelle rassicurazioni Denver se ne andò, ma non prima d'aver visto piazzato su uno scaffale vicino alla porta sul retro, la bocca di un servitore nero, piena di monete. Aveva la testa reclinata all'indietro, più di quanto potesse fare in realtà, le mani infilate in tasca. Sporgenti come lune, i due occhi erano la sola parte della faccia che si elevava dalla bocca spalancata. I capelli erano un'infinità di punti formati da teste di chiodi sollevate e ben distanti fra loro. Ed era in ginocchio. La bocca, grande come una tazza, ospitava le monete che servivano a pagare una consegna o qualche altro lavoretto, ma avrebbe potuto ospitare dei bottoni, degli spilli o della marmellata di mele selvatiche. Lungo il piedistallo su cui stava inginocchiato erano dipinte le parole «Servo vostro». Jenny provvide a diffondere subito tra le altre donne di colore le notizie che aveva ricevuto. La figlia morta di Seth, quella a cui aveva tagliato la gola, era tornata per saldare il conto. Seth era prostrata, macchiata, morente, confusa, cambiava forma e in breve era tormentata. Questa sua figlia la picchiava, la legava al letto e le strappava tutti i capelli. Ci vollero dei giorni per gonfiare la storia come si doveva, per agitarsi e poi calmarsi, e infine per vagliare la situazione. Si divisero in tre gruppi, quelle che credevano al peggio, quelle che non ci credevano affatto e quelle, come ella, che avevano riflettuto a fondo prima di giungere a una conclusione. «Ella, che cos'è questa storia che ho sentito su Seth?» «M'hanno detto che è lì con lei, non so altro.» «La figlia, quella uccisa?» «Così m'han detto.» «Come fanno a sapere che è lei?» «Se ne sta là. Mangia, dorme e pianta un putiferio. Picchia Seth tutti i giorni.» «Ma va, una bambina!» «No, è grande! All'età che potrebbe avere se fosse viva!» «Vuoi dire che è in carne e ossa?» «Voglio dire che è in carne e ossa!» «E la picchia?» «Come la pastella!» «Se l'hai meritato! Nessuno si merita una cosa così!» «Ma ella!» «Ma niente! Quello che è giusto non è detto che vada bene per forza!» «Ma una non può prendere e ammazzare i figli!» «No! Ma i figli non possono prendere e ammazzare la mamma!» Fu ella a convincere le altre che si imponeva un'operazione di salvataggio. Era una donna pratica e credeva che per ogni malattia ci fosse una radice da masticare o da evitare. La riflessione, come la chiamava lei, rendeva confuse le cose e impediva l'azione. Nessuno l'amava e a lei non sarebbe piaciuto se l'avessero fatto, poiché riteneva l'amore una malattia grave. Aveva trascorso la pubertà in una casa dove veniva divisa tra padre e figlio, che lei definiva il peggio del peggio. Era stato il peggio del peggio a farle provare disgusto per il sesso. Contro questo misurava ogni genere di atrocità possibile. Una uccisione, un rapimento, una violenza carnale, qualunque cosa, lei ascoltava e annuiva. Niente poteva paragonarsi al peggio del peggio. 20 anni prima aveva compreso la furia di Seth nella baracca, ma non la sua reazione, che ella pensava fosse frutto di orgoglio e fuori luogo e riteneva Seth stessa troppo complicata. Quando era uscita di prigione e non aveva fatto nessun gesto di rapacificazione verso gli altri, e aveva vissuto come se fosse sola, ella l'aveva scaricata e non le aveva più rivolto il saluto. La figlia, comunque, tutto sommato, sembrava dotata di un po' di buon senso. Almeno aveva varcato la soglia, aveva chiesto l'aiuto di cui aveva bisogno e voleva lavorare. Quando ella aveva saputo che il 124 era occupato da un qualcosa di indefinibile che malmenava Seth, questo l'aveva resa furiosa e le aveva offerto un'altra opportunità di confrontare quello che si poteva ben definire il diavolo in persona con il peggio del peggio. Nella sua furia c'era anche qualcosa di personale. Qualunque cosa Seth avesse fatto, a ella non andava giù l'idea che gli errori del passato si impadronissero del presente. Il crimine di Seth era sconvolgente e il suo orgoglio l'aveva persino superato, però lei non poteva tollerare che il peccato si trasferisse in casa, sfrenato e insolente. La vita di ogni giorno richiedeva tutto quello che lei aveva. Il futuro era il tramonto, il passato qualcosa da lasciarsi alle spalle. E se non voleva stare alle spalle, beh, forse c'era bisogno di distruggerlo. Vita da schiavi, vita da uomini liberi, ogni giorno era un esame e una prova. Non c'era niente su cui poter contare, in un mondo dove se uno era una soluzione era anche un problema. A ciascun giorno basta la sua pena e nessuno aveva bisogno d'altro. Nessuno aveva bisogno che il male cresciuto sotto forma di un'adulta si sedesse a tavola con rancore. Finché uno spettro faceva capolino dai luoghi spettrali in cui viveva, sbattendo la roba, urlando, fracassando tutto e così via, ella lo rispettava. Ma se entrava nel suo mondo, in carne e ossa, beh, allora era un altro paio di maniche. Un po' di comunicazione tra i due mondi le stava bene, però questa era un'invasione. «Dobbiamo pregare?» chiesero le donne. Disse ella. «All'inizio, poi dobbiamo passare alle vie di fatto». Hold my hand, take my hand, precious Lord, and Maria Paiato ha letto Amatissima di Toni Morrison, traduzione di Giuseppe Natale. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.